Vorrei cominciare leggendovi una frase dal libro di Tim Engold. La vita ci avvicina ai nostri antenati o ci allontana da essi sempre di più? Seguiamo le loro orme o guardiamo risoluti in direzione opposta? I nostri antenati sono davanti a noi, facendoci cenno di andare verso il futuro, oppure sono alle nostre spalle, ritirati sempre più lontano nel passato. D'altra parte, i nostri discendenti ci stanno alle calcagna o ci hanno già superato, lasciandoci dietro la loro scia? Qual è il tracciato più giovane e quale quello più vecchio? Sono domande che ci lasciano perplessi. È difficile introdurre Tim Engold, perché, lo dico in una maniera proprio molto diretta, è uno dei più grandi antropologi viventi e uno di quei nomi che nell'antropologia resterà nella storia. Se tra 200 anni si studieranno libri di antropologia, si studierà il lavoro di Tim Engold. E questo lo dico proprio per togliere subito, come dire, un dubbio sul fatto che io personalmente e tutti noi credo siamo grati della sua presenza oggi, perché è sicuramente un autore che, come dirò in poche parole, poi lascerò tutto lo spazio a lui, ha qualche cosa da dire a partire dal nostro passato, qualche cosa da dire sul nostro futuro. Un concetto, un oggetto poco manipolabile che ci sta sfuggendo tra le dita come sabbia, non sappiamo esattamente che cosa ci aspetta e abbiamo bisogno appunto che tutte le generazioni, come dice il suo libro, siano capaci di incontrarsi anziché semplicemente di inseguirsi o di succedersi tagliando i ponti col passato o infischiandocene del futuro con chi sarà poi in realtà il vero erede di questo pianeta, ed è necessario, credo, ed è vitale che grandi voci, non solo dell'antropologia ma della filosofia come Tim Engold, possano dirci qualcosa, senz'altro hanno qualcosa da dirci. Sarebbe lungo fare, come dire, la tipica presentazione classica, accademica, di tutti i luoghi in cui ha studiato, ha fatto ricerca sul campo, dove ha insegnato, a Helsinki, Manchester e poi per tutta la vita a Aberdeen, dove vive, però secondo me è molto più importante dire altro, che la sua visione dell'antropologia non è limitata alla questione del fare ricerca sul campo, anche se ha fatto ricerca sul campo in tutta quella zona che supera le frontiere, che è la zona dove abitano i Sami, quindi nel nord Europa, con i nativi che appunto in Norvegia, Svezia, Finlandia, parte della Russia, rappresentano, come dire, la vera presenza nativa dell'Europa. Tuttavia ha subito fatto scivolare la sua idea di antropologia verso un bisogno che era quello del fare, un'antropologia dove si dava molto peso alla dimensione manuale del corpo, della costruzione, quindi cercava di arrivare alla dimensione culturale attraverso anche proprio la cultura materiale, la dimensione del fabbricare, del come si costruiscono gli oggetti dell'uso comune, della quotidianità. E partendo da questo ha sviluppato tutta una serie di idee che lo hanno portato ad abbattere le solite barriere dell'antropologia, parlando di antropologia in una maniera dialogata con l'architettura, con l'arte, con altre discipline, le scienze esatte, la biologia, e quindi un'idea proprio ad ampio spettro, di grande apertura, e soprattutto da quando lo faceva già da prima, ma soprattutto da quando poi diventato professore emerito a Aberdeen, ha lasciato l'insegnamento per limiti di età, andando in pensione, ha cominciato a concentrarsi su una visione molto filosofica e a preoccuparsi molto del futuro delle giovani generazioni. E proprio per questo non è, lo dico da subito, una preoccupazione paternalistica. Riuscirete poi dalle sue parole a capirlo con esattezza. Ma è proprio la comprensione del fatto che le generazioni debbono intrecciarsi tra di loro per costruire un'ipotesi di salvezza futura. E la sua preoccupazione principale è quella dell'educazione, come far passare saperi che stanno scomparendo. Mi fermo qui e vi dico semplicemente come si svolgerà la cosa. Io farò alcune domande molto semplici, le dirò prima in italiano a comprensione di tutti, le rivolgerò a lui in inglese, poi dopo ci sarà la traduzione simultanea delle risposte, non simultanea, ma diciamo a pezzetti, un pezzetto alla volta delle risposte di Ingold, e le mie domande si concentrano su alcune parole chiave che ricorrono nei suoi testi, ma che sono anche parole chiave che intercettano, credo, le preoccupazioni di cui lui parla e che non sono solo sue, probabilmente. Quindi direi di procedere in questo modo. La prima domanda è che noi viviamo in tempi difficili e alcuni chiamano questa era, l'era in cui viviamo, antropocene. L'antropocene è una parola chiave di difficile lettura, ma è una delle parole che anche nei suoi studi Ingold ha intercettato. We live in difficult times. Someone call our era the Anthropocene. Keyword, Anthropocene. I don't really like this word, Anthropocene, but it has one advantage to it. It has generated a lot of conversations between people coming from disciplines that until recently rarely, if ever, spoke to one another. I mean people in the earth sciences, in the life sciences, in different areas of the environmental humanities, anthropology, and so on. Non mi piace tantissimo questa parola, però ha sicuramente un vantaggio, è riuscita a unire persone generando una discussione, un dibattito, una conversazione da persone appunto che studiano e abitano diverse discipline, scienze della vita, scienze della terra, discipline ambientaliste. The term has been widely criticized on the grounds that the agents responsible for the current crisis are not all humans, not humanity as a whole, but maybe capitalism, maybe plantation owners, or all sorts of other, maybe the military. So we talk about the Capitalocene or the Plantationocene, and all sorts of other words are being used. I find it somehow obscene that academics who only have their careers to make are arguing amongst themselves about what word to use while the planet burns. È stato molto criticato anche da diversi punti di vista questo termine, perché si tende a dire che, diciamo, gli agenti responsabili per lo sviluppo di tantissimi problemi che viviamo non siano solo esseri umani, ma anche il capitalismo stesso, i proprietari di terre, i militari, o diverse, appunto, il capitalismo come sistema. Io personalmente trovo osceno e abbastanza complesso il fatto che gli accademici si preoccupino più di trovare una giusta definizione che agire direttamente su questo termine. So my problem with the term is not so much the anthropo as the scene, the part at the end, because here we are following the convention of the geological sciences in describing the history of the Earth as a series of epochs, with each epoch layered over the other so as to form a stratified sequence. Il problema, secondo me, non è tanto la parte iniziale della parola antropocene, quindi l'essere, diciamo solo l'essere umano, ma anche la parola finale, nel senso che nei dibattiti appunto troviamo per esempio che le scienze geologiche ci parlano di una stratificazione nel corso del tempo di fenomeni e di sviluppi. So in this book about generations I've been trying to criticize this way of thinking of history in terms of layers and strata, and to think instead in terms of a continuous process of life or of becoming. Quindi nel mio libro parlo di questo problema considerando come è complesso definire la storia come una stratificazione di eventi, ma è più importante considerarla in termini di un'evoluzione e un'interdipendenza tra tutto ciò che avviene in un determinato contesto. Because if the Anthropocene really was an epoch, we should know not just when it begins, but also when it ends. So people who talk about the Anthropocene are putting themselves in a sort of godlike position above the world, above history, where they can tell the whole history of the earth as though they were outside of it. E se quindi intendiamo l'antropocene come epoca, dobbiamo anche quindi ragionare non solo sull'inizio ma anche sulla fine di questa epoca e evitare, come invece fanno molti, di porci all'esterno della storia, all'esterno o al di sopra dei fenomeni, andando a parlare di questi come se noi potessimo astrarci da ciò che accade. So when scholars in the environmental humanities talk about the Anthropocene, I don't think they really mean an epoch. I think they mean a ruin. And that ruin is the pile-up of debris that has accumulated through several centuries of what is called progress. E quindi molti accademici in realtà parlano di antropocene non tanto in termini di epoca, ma considerandola anche come lui dice, usava la parola rovine, come appunto una conseguenza di il risultato di una serie di processi che hanno portato ad un degrado, ad una fine, ad una. So to address the crisis of the Anthropocene, we have to find an alternative way of thinking about how to move forward than the way of progress that has been bequeathed by the Enlightenment 300 years ago. Quindi dobbiamo essere capaci di ragionare sul progresso in termini critici se vogliamo davvero affrontare il tema della crisi dell'antropocene e di una diciamo di una riflessione su un'alternativa, una via di fuga, diciamo, da questo sistema, questa idea di progresso che, come sappiamo, inizia già durante l'illuminismo e che ci ha portato a questi, diciamo, ideali distorti. Ok. Allora abbiamo la sensazione di vivere nell'unico modello possibile, che è quello occidentale. Molto molto spesso non cresciamo e continuiamo a vivere in un ambiente in cui non ci rendiamo conto di una cosa fondamentale, che cioè noi siamo solo una cultura tra le tante, e questo aspetto è qualcosa che ci impedisce di vedere appunto in maniera diversa il nostro rapporto con il tempo, con lo spazio, con la cultura, eccetera. E c'è la parola chiave in questo caso che vorrei sollecitare, è la parola diversità, diversità culturale. Quindi, we believe that the Western model is the best in the world, but we know instead that the world is characterized by diversity. Actually, I would say that the world is characterized by difference. And with all respect to Matteo, I would want to make a critical distinction between difference and diversity. In realtà, con tutto il rispetto per il termine diversità, vorrei invece evidenziare che si tratta forse più di parlare di differenze quando parliamo di culture. E adesso vorrei un attimo evidenziare la distinzione tra diversità e differenze. Imagine You are driving in a car down a highway, a motorway, accelerating down the fast lane. And then you look at your mirrors on one side and the other, and what you see is something retreating very quickly behind. On one mirror, you see traditions, ways of human living in the past. In the other mirror, you see species, different forms of animal life. Immaginatevi di stare in una macchina in autostrada a velocità accelerata e di porre lo sguardo sui due specchietti laterali. Vedete qualcosa che scorre dietro di voi e nei due specchietti vedete due cose diverse. In uno specchietto vedete la tradizione e nell'altro specchietto invece vedete diverse specie. So in one mirror you see cultural diversity, in the other mirror you see biodiversity. You see cultures and you see species as a sort of catalogue of forms of life that are on the point of disappearing as you speed forward in the fast lane. What was the second species? Biodiversity, cultural diversity. E quindi in uno specchietto vedete le differenze culturali e nell'altro vedete la biodiversità. E quindi potete vedere attraverso questi due specchietti che entrambe, mentre voi accelerate, spariscono dietro le vostre spalle. So diversity is what has fallen out, precipitated out from processes of life, and that you see when you look back in that rear mirror. Difference, however, is something that continually emerges in and through the relations that beings, human and non-human, have with one another. La diversità è quindi in questo senso qualcosa che non c'è più, qualcosa che inizia a sparire, che inizia appunto a sparire dietro alle nostre spalle, appunto la diversità culturale, la diversità delle specie, mentre la differenza è più una cosa che ci unisce, una colla. Yeah. So whereas diversity is something we seek to conserve, difference is about coexistence. It's about going along together with other creatures or other lives and differentiating yourself from those others as you go. As in an ordinary conversation, you find your own voice as you go along with others. Quindi se la diversità è qualcosa che tendiamo a voler conservare, quindi quasi con una tendenza appunto a un ricordo, nella differenza invece troviamo la capacità magari di interpretare una coesistenza con le differenze, quindi con ciò che è diverso, differente da noi, però interagendoci, quindi come durante una conversazione, quando parliamo, in questo modo non stiamo per forza eliminando qualcosa o trascurandolo alle nostre spalle. So what we need, So what we need to do is to move from thinking about the conservation of culture and nature to coexistence with other beings, which means that we are going along in the same direction as them, not looking back in our mirrors. E quindi dobbiamo andare da una concezione dove siamo tendenti al conservare verso una concezione dove vogliamo coesistere. E questo implica considerarci un po' tutti sulla stessa barca, dobbiamo trovare tutti un modo di attraversare la stessa direzione insieme e non tendere a guardare ciò che è diverso come qualcosa che è già passato e dove noi siamo, diciamo, alla guida o davanti. Okay. Quando pensiamo al futuro, e soprattutto di fronte alla sua invisibilità, abbiamo bisogno di strumenti, non solo per renderlo visibile, ma anche per cercare di capire come e in che modo possiamo costruirlo, appunto in questa prospettiva di coesistenza, come diceva Ingold. abbiamo bisogno di strumenti, e uno di questi è senz'altro l'antropologia, di cui lui è rappresentante. Quindi la parola chiave su cui vorrei sollecitarlo è antropologia. To face the future, we need many tools. What about anthropology? First of all, I want to make a clear distinction between anthropology and ethnography. Ethnography seeks to study other lives and to give an account that is nuanced, sensitive, detailed of what the experience of these other lives is like for those who live them. No? Okay. Allora, anche qui porto in gioco una distinzione tra antropologia ed etnografia. L'etnografia si focalizza sullo studio di altre vite e sulla dimensione descrittiva di queste altre vite, come avvengono, da cosa sono contraddistinte, eccetera. But anthropology has a different objective. It is to inquire into the conditions and possibilities of human life, to inquire into these possibilities through conversations with other people. It's an inquiry, a speculative inquiry, into how we should live, which draws on the wisdom, experience and knowledge of all of those who become our teachers. Mentre l'antropologia invece vuole indagare più nello specifico le condizioni e le possibilità delle esperienze degli altri, delle vite degli altri, e quindi in questo senso l'indagine è un po', dico, speculativa, nel senso che c'è una conversazione, una conoscenza che attinge proprio a questa indagine di conoscenza approfondita, della non tanto descrittiva ma dialogante con l'esperienza altrui. So here's my long definition of anthropology. This will be a challenge for you. Ecco, adesso che arriva la mia lunghissima spiegazione definizione di antropologia. So anthropology is a generous, comparative, open-ended and yet critical inquiry into the conditions and possibilities of life for human and other beings in the one world we all inhabit. Mm-hmm. Allora, sì. l'antropologia è quindi un'indagine apertissima, aperta, senza una fine già definita, senza una definizione già conclusiva. È un'indagine generosa, comparativa e critica rispetto a, appunto, le vite delle persone, le esperienze delle persone e non. It's generous because we listen to what other people have to say rather than taking what they say as data. It is open-ended because we are not looking for final solutions, but ways for life to carry on. It is comparative because whenever we look at one form of life, we are aware that things could be done differently. And it's critical because we cannot be content with things as they are. Quindi, è appunto un esercizio generoso, in quanto non c'è, per esempio, il tentativo, appunto, ritornando alla definizione prima di etnografia, non c'è solo un tentativo descrittivo di estrapolare dati o informazioni per semplici motivi di studio da ciò che noi capiamo e dai racconti delle persone delle altre culture, ma è un ascolto costante, quindi partecipato con queste esperienze di vita. È aperta perché noi nell'esercizio antropologico sappiamo che non c'è una sola vera risposta o soluzione obiettiva, direi there's no objective end, right, and solution, ma invece lo scopo antropologico deve essere quello anche di trovare una soluzione per continuare a a sviluppare la vita, e in questo senso è anche comparativa, nel senso che quando osserviamo anche altre forme di vita, altre esperienze, dobbiamo fare lo sforzo costantemente di ricordarci che diciamo l'esperienza umana può essere, può manifestarsi in maniere molto diverse tra di loro, e che quindi non è utile riportare sempre a una singola definizione quello che noi intendiamo per antropologia o cultura. E quindi in questo senso è anche critica, perché noi sappiamo che non ci accontentiamo di come stanno le cose, di come vanno le cose, delle risposte che già abbiamo dato nel corso del tempo a determinati problemi, e quindi appunto ci approcciamo in maniera critica rispetto a quello che ci circonda e a quello che viene dibattuto. Other disciplines that work with human subjects tend to treat those subjects, those people, as sources of data, of raw material for analysis, for academics who know better than they do. I think anthropology is the only discipline in the human sciences that actually takes seriously what other people tell us, not as sources of data, but actually as ideas and experience and knowledge from which we can learn. And in the present crisis, we cannot afford to ignore this experience, this wisdom, and this knowledge. E tendenzialmente le scienze umane e sociali tendono a considerare le persone come oggetti di studio, come dicevo prima, per estrapolare da queste esperienze dei meri dati o informazioni che poi sono utili ad un'analisi accademica. E secondo me all'interno delle discipline accademiche l'antropologia è l'unica che riesce realmente ad accogliere le esperienze degli altri, a studiare senza determinare in un certo senso l'individuo, la persona, come un oggetto da cui appunto estrapolare cose, ma invece considerare appunto nel profondo quali sono queste esperienze, qual è appunto il vissuto di tante persone. Ricordiamoci appunto che nella crisi attuale, nella crisi presente, noi abbiamo ancora più bisogno di ascoltare, di interagire in maniera aperta e accogliente con le persone, che è ciò che l'antropologia studia. And that is why, just as anthropology needs the world needs anthropology. And it needs anthropology not only for itself, but also to show other disciplines a better way of working, which is not extractive, but conversational. E così come l'antropologia ha bisogno del mondo per essere antropologia, il mondo ha bisogno dell'antropologia, perché riesce a dimostrare che non possiamo utilizzare, diciamo, l'ambiente o il mondo, le culture, come qualcosa da cui estrarre conoscenze o altro, ma abbiamo bisogno appunto di viverci e relazionarci con il mondo che ci circonda. Ok. Vedete, prima Ingold ci parlava di questa cosa, di questa visione del tempo e dello spazio stratificata, un po' una visione geologica, e lui dice che invece dobbiamo provare a cambiare paradigma, a vedere le cose in maniera diversa. Esattamente, noi siamo abituati a vedere le generazioni come qualcosa che si sostituisce, che viene sostituita, la nuova generazione sostituisce la vecchia. Per Ingold bisogna invece cambiare punto di vista, e lui parla appunto in questo libro, Il futuro alle spalle, ripensare le generazioni, parla essenzialmente di questo, oltre che di tutto il resto di cui stiamo parlando ora. Il titolo originale è Rise and Fall of Generation Now, l'ascesa e la caduta della generazione adesso, proprio perché abbiamo questa tendenza a vedere la generazione come fissa in questo momento, senza quasi un passato e senza un futuro, e che viene appunto sostituita. Quindi la domanda per Ingold è: che cos'è effettivamente questa generazione adesso? What is generation now? Among most people around the world outside the West, and throughout most of history, people have had the sense that in life they are following those who went before them, following in the footsteps of their ancestors, even as their descendants will follow in their own footsteps. Yeah. Come si dice ancestor? Mi viene la parola ancestor. Molte persone, anche al di fuori, soprattutto al di fuori dell'Occidente, concepiscono la loro vita come un percorso all'interno del quale loro seguono ciò che è stato già tracciato dai loro antenati e quindi seguono i passi che sono già stati fatti dagli antenati. So, with that way of thinking, the future where we will be is before us and the past is behind us, behind our back. E quindi in quest'ottica Sorry, can you repeat that? I was distracted. So the future is behind us. Actually, I'm getting it myself. muddled up myself. Yeah, because... what I mean is that the ancestors are before us and the descendants are behind us. Questo senso i nostri antenati non sono alle nostre spalle, ma stanno davanti a noi. Yeah. So in that view there is not really any present. The present is just the future's past. Quindi non esiste realmente un presente. Il presente è il passato del futuro. Il futuro passato. But in thinking about this, I imagined people standing in a queue, waiting for there's an ice cream van there by the door, and people are queuing up for their ice cream in a neat line. And so your ancestors, they're the people who are closer to the ice cream, they're in front, they got there before you did. Your descendants are the people who came after, they'll come, they hope to be in future where you are now and then where your ancestors were. And everybody is moving forward in that direction, in the direction of what we would now call the past. So the ancestors before you are not just your past, they are your future. Quindi immaginiamo una gelateria, un piccolo stand che vende gelati. Ci troviamo in una fila dove siamo in attesa di appunto prendere questo gelato e in questo senso io ho iniziato un po' a ragionare su questa concezione, no, di generazionale, di come concepire le generazioni e ecco che vediamo che i nostri antenati su questa fila stanno davanti a noi, i nostri discendenti stanno dietro di noi e noi siamo un po' nel mezzo. Ma tutti si muovono in questo senso verso il passato e quindi in questa ottica gli antenati non sono realmente diciamo il nostro passato ma il nostro futuro, ciò verso cui tendiamo in questo parallelismo con una fila per un ottimo gelato. So I'm standing in this queue and now suppose I turn around and put my hands up and say this is a hold up. I'm now face to face with the people coming after me and I've turned my back on the ancestors before me and in doing that turn I've made a claim for the present. So this is my time, this is my present and it will last until you, people behind, push me aside. Okay. Should I stand up as well? No, you get that. E quindi immaginate adesso io appunto mi sono alzato, no, e mi sono girato, sono faccia a faccia con i miei discendenti e do loro la schiena e però anche poi mi volgo verso i miei antenati e gli dico adesso questo è il mio momento, it is the moment to... È il mio presente per agire. And that turn on the present is what creates the sense of a generation which I call generation now, which stakes its claim to the present, by contrast both to a past that has disappeared behind it or underneath it, and a future that is coming towards it. So the future is coming into it, like that. Can you repeat the beginning, please? So when I've turned around, that turnaround is characteristic of modernity's claim to the present, okay, in which I've turned my back on the past and have come face to face with the future. Questo girare è rappresentativo di come la modernità concettualizza anche un'idea di progresso e di avanzamento, cioè io mi sono girato, dato le spalle al passato e adesso mi sto volgendo verso il futuro, è questo che io intendo per generazione ora. So my claim is that in modernity we tend to think of generations replacing one another like strata, each one, when its time comes, making that turn and staking its claim to the present, as distinct from the past that's fallen behind it or under it, and the future that is coming towards it. E quindi, come io appunto spiego, la modernità fa questa supposizione dove appunto ogni generazione si sostituisce all'altra in una sorta di rottura con il passato e movimento verso un futuro, come se fosse effettivamente possibile per ogni generazione stratificarsi rispetto all'altra e costruire così un'idea di futuro e progresso. And this is linked to an idea of the life course, which I've likened to a bell curve, in which you start off in childhood or as an infant, and you grow up until you reach a position that we call the prime of life, and then you fall again into old age, senescence, and you eventually die. So that the generation now is that generation that thrusts itself between childhood and elderhood, comes in between, pushes both the children's generation and the elder's generation aside and says, we are in charge of the present. E questa, appunto, questa concezione moderna di presente, futuro e passato è molto simile a una curva di Bell, al ciclo delle nostre vite, no? Dove abbiamo la fase in cui siamo bambini, un picco nella nostra vita di quando siamo adulti e viviamo, diciamo, le esperienze più apicali, e poi un momento di nuovo di ridiscesa verso la vecchiaia e l'anzianità. E in questo senso generazione ora è questa idea di una generazione appunto adulta che appunto si posiziona in questa maniera si posiziona su questo picco del ciclo della vita, ma così facendo sta anche posizionandosi come quella generazione che potrà produrre e attivare un cambiamento. So what I'm arguing is that instead of layering generations on top of one another, we should lay them alongside one another. So here's one generation, then the next, and then the next, so that then the old and the young can make the future together in their collaboration along the ways of their ancestors. E quindi quello che propongo di fare come esercizio e poi anche in pratica, insomma, è non di considerare le generazioni come una sopra l'altra in questa concezione stratificata, ma una accanto all'altra che camminano e convivono insieme per produrre un cambiamento e una vita sociale insieme e intraprendentemente, se esiste questa parola in italiano, non lo so. As I talked earlier about the ruin, at the ruins of progress, this is what happens if each generation overrides or overrules the each generation has its own projects, its own structures, and then the next one comes along and replaces it with its structures, and then the next one with its structures, you end up with a pile of ruin. So the solution will be to turn around in the other direction, facing in the direction of the ice cream van, facing towards those who have gone before us. E quindi è così che si crea ciò che io appunto vi dicevo inizialmente è, diciamo, la rovina del progresso, perché se ogni generazione vive la sua vita in questa concezione che è responsabile per la creazione di un suo progetto, di una sua idea distinta di società o di sviluppo e di strutture che va a costruire nel corso del tempo, non avremo altro poi che delle rovine che ogni generazione tenderà a lasciare, e questa dicevo una sorta di torre di rovine. È così che possiamo poi, è così che io tendo poi a concepire questo l'evoluzione, il progresso nella concezione della modernità. Invece, come vi dicevo prima, dobbiamo girarci verso quel gelataio e quindi girarci verso i nostri antenati, che sono il nostro passato. And in a nutshell, that's the argument of this book. E quindi questa è un po' l'argomentazione principale nel mio libro, questo esercizio qua. E sembra di capire che nel discorso di Ingold c'è una questione di prendersi la responsabilità, non di essere l'unica generazione che conta, ma di essere all'interno di un flusso generazionale complesso. E in questo gli volevo proporre le ultime due parole chiave che per me sono collegate, e cioè educazione e speranza. Two key words that I believe are linked: education and hope. Well, education is the way a society produces its own future. So the meaning of education depends upon what we take the future to be. If we work with the model of generation now, with every generation replacing the one that went before, then our generation and the future are facing each other face to face, as in a school classroom, or as now, here am I facing you. We are face to face, and if you move forward, you will push me aside. Allora, rispetto all'istruzione e la speranza, se l'istruzione è anche, diciamo, la produzione di futuro, di un futuro, questo dipende però importantemente dalla nostra concezione di futuro. Quindi l'istruzione dipende importantemente da quello che vede come un futuro. E in questo senso, se noi adottiamo questa concezione di cui vi parlavo prima, quindi di una stratificazione dove il futuro non è che, diciamo, l'arrivo di qualcosa di diverso rispetto ad adesso, ma sempre in maniera stratificata, non riusciremo poi a fare quell'esercizio importante di cui vi parlavo, di riuscire invece a volgere lo sguardo verso la coesistenza di diverse generazioni. Noi anche adesso siamo faccia a faccia e stiamo producendo delle conoscenze. We're face to face. Face to face, yeah. Producing new knowledges around. Or replace. I'm projecting my knowledge to you, students, right? Io sto proiettando le mie conoschenze verso voi in questo schema. But the students, you're also coming towards me. Ma anche voi mi state a me dando qualcosa. So it's inherently confrontational, yeah. Ed è diverso da invece un'idea moderna di concezione del progresso. And that is the mainstream model in modern education, the idea that every generation should replace its successor with even better ways of living, that each should stand on the base of its predecessors, but also replace its predecessors. Yeah? Ed è questa l'idea un po' dominante nell'istruzione attuale, no? Che le nuove generazioni saranno quelle capaci di rimpiazzare conoscenze o generazioni precedenti, e questo crea inevitabilmente dei problemi. And this model, this mainstream model, is based upon a principle of optimism. The principle of optimism says that we only have one more generation and we'll get there. We'll finally achieve the ideal state of enlightenment that we have been seeking for. E questo modello dominante si basa anche su un certo ottimismo, dove si continua comunque a credere in una fantomatica generazione che in qualche momento riuscirà a dare le risposte alla nostra ricerca di una nuova epoca di illuminismo e di cambiamento. But if we think of generations as lined up with one another and overlapping, then in education, in teaching and learning, if I am the teacher and you are the pupil, we are facing in the same directions, as if we were walking along a path together. Ma se invece ragioniamo sulle generazioni, come ricordavo prima, in questa ottica di stare tutti in una stessa fila, anche vicini, insomma, a contatto, ecco che non c'è una generazione che guarda qualcosa di diverso rispetto all'altra, ma entrambe le generazioni, in questo caso il professore e le studentesse e gli studenti, guardano nella stessa direzione, quindi copartecipano al loro presente e futuro. So I call this face to face. This is the academic posture. I call this going along in the same direction the posture of companionship. E questo modello, il modello dominante, tende a, possiamo definirlo anche in termini accademici, come un faccia a faccia, un approccio anche frontale, insomma, al futuro, al progresso. Mentre quello che io invece spero di trasmettere, che comunque racconto nel libro, lo definisco companionship, quindi una collaborazione tra compagni, una comunalità. Grazie dell'assist. So in companionship, teacher and pupils are going along together rather than standing face to face, not in the expectation of reaching some final point, but in the expectation of simply being able to carry on. E quindi in quest'ottica non c'è appunto l'idea che si debba per forza arrivare a un certo determinato punto X di arrivo e di successo, ma semplicemente l'idea di andare avanti insieme. So, an education based on the posture of companionship does not aim to bring students into the light. It aims rather to help students see in the dark. Bella questa. E quindi in questo approccio di comunalità l'idea non è che il professore o la professoressa debbano illuminare in qualche senso, in qualche modo, gli studenti e le studentesse, ma insegnare loro a imparare insieme, diciamo, a guardare e osservare nel buio. The final opening to the light is optimism, but seeing in the dark is hope. E riuscire a vedere questa fantomatica luce è ottimismo, mentre la speranza è riuscire a stare insieme dentro questo buio. So a sustainable education, I argue, must be based on hope rather than optimism. Quindi un'istruzione sostenibile deve essere basata sulla speranza e non sull'ottimismo. Ok. Un'ultima domanda, forse più personale, partendo da una riflessione, cioè il fatto che giustamente consideriamo la crisi, il collasso ecologico, come una delle cose che ci riguardano più da vicino e su cui facciamo tante riflessioni, tuttavia è come se ci fosse la sensazione diffusa che non è solo questa la discussione possibile, ma proprio per intercettare quello che diceva Ingold sulle generazioni, pensavo, lui è nato nel 1948, ha vissuto molti molti mondi come antropologo e ha attraversato varie epoche che qui noi non abbiamo, nessuno qui ha fatto esperienza, proprio per una questione di generazione, generazionale, e quindi volevo chiedergli appunto che cosa in una prospettiva di speranza può aiutare a salvare la Terra, addirittura. Ecology is at the heart of our concerns, but maybe we need something else. You have known many generations and many worlds as an anthropologist and as a human being. You have seen violence and kindness. So, what can save the Earth? I should first say that I've seen a great deal more kindness than violence. I've actually seen very little violence and a great deal of kindness. And I think we would be good to recognize that actually there is more kindness than violence in the world. Devo dire che in realtà io ho visto più gentilezza che violenza nel mondo e ho conosciuto più gentilezza che violenza, e sarebbe bello riuscire a ricordarci che forse c'è più gentilezza e generosità che violenza. But I think, and this is why I'm hopeful. But I think what we all have to concentrate on is how to be good ancestors for our descendants, so as to give them paths that they can follow in their own ways. E quindi ciò su cui secondo me dobbiamo concentrarci è come essere dei bravi antenati per i nostri discendenti. We are not helping our descendants by both living only for the present or saying that the world into which we are bringing them, you people, is a disaster, a crappy place, which has to be built completely from scratch again. In realtà non aiutiamo i nostri discendenti dicendo loro che il mondo fa schifo, è terribile, va ricostruito da zero. Okay. So therefore we have to, in introducing new people into this world, we have to show them what is beautiful about it. What is lovely about it? Because only if we do they have the chance to renew it for generations to come. E quindi invece di sottolineare quanto è schifoso e brutto e terribile questo mondo, bisogna fare questo sforzo di focalizzarci su cosa è bellissimo, importante di questo pianeta, di questo mondo, delle culture, proprio per riuscire poi ad avere questa importante speranza e andare avanti. And that means taking responsibility for the world as it is. And maybe that's where we have to go one step further than just ecology. A responsible ecology has to be one that is grounded in our relationships with the world that we find ourselves in, not some imagined world of the past or some dreamt of world of the future, but the world we find ourselves immersed in now. So although I've spoken against the idea of generation now, I would speak for the idea that we have to work with the world we have and not with a world that we imagine we have or thought we had. E questo significa ragionare in modo responsabile, agire in maniera responsabile, perché effettivamente un'ecologia responsabile significa anche non idealizzare un mondo passato o futuro, ma riuscire a abitare, concettualizzare, vivere nel mondo di adesso, quello attuale. E anche se prima ho criticato, ho definito in maniera critica, diciamo, la generazione dell'ora, adesso, questo, diciamo, significa però allo stesso tempo che io, non significa che io non pensi che invece è importante focalizzarsi su il mondo così come è adesso per poter effettivamente costruire dei processi di speranza e di miglioramento all'interno di questo pianeta che abitiamo. Okay. That's it. Ovviamente ora comincia, speriamo, il momento delle domande, se ne avete. Volevo chiedergli se la questione di come relazionarsi alle generazioni passate, se da una parte riconosciamo che le generazioni passate abbiano svolto un ruolo fondamentale per dove siamo adesso, quindi è un esempio molto situato, ma il diritto all'aborto in Italia è stato grazie a una serie di lotte che le persone che hanno l'età magari di mia nonna o delle mie zie hanno portato avanti. Dall'altra parte, a volte mi sembra che cerchiamo di migliorare il mondo cercando anche un pochino di rompere e decostruire le cose passate, quindi si pensa delle strutture come il capitalismo, gigastruttura, però anche cose molto più piccole dell'educazione, stiamo cercando di decostruire quello che è passato per cercare di costruire qualcosa di nuovo, quindi come tenere insieme i due piani, in questo, grazie. As a generation, of course I acknowledge that past generations have made struggles and fights which enable us today to have certain rights or freedoms, like the right to abort, which of course we owe to the past generations. At the same time, there are also a lot of things that past generations have left us with that are extremely critical and intolerable. And in many ways, we are trying to deconstruct these processes or things. So my question is, how can we keep together these two feelings of one side treasuring what other generations have left us, and on the other side, discarding what other generations have left us? Mm. It's a very, very good question, and it troubles me a lot because I feel I haven't really addressed it. I certainly haven't addressed it in the book, and I certainly have no immediate answer to it. It troubles me because we do have some sort of idea of moral progress, or that there is something which are absolutely better, the rights that we've fought to achieve and that weren't there in the past. Surely this is a move in the right direction. And my only answer so far is to say that this is not a matter of casting a moral judgment on our ancestors, but simply of recognizing that we are alive because they lived, and really nothing more than that. I think that if we go back to people around the world who still honor their ancestors, as throughout much of the world they do, I think that's what they would say. They wouldn't say that my ancestor was a great person or a bad person. They would simply be telling the story and saying, well, my ancestor lived, and then that's why I'm alive now and my descendants will live. So it's that generational continuity that matters, and in that sense then the moral question about what is right and wrong is a separate question. But people have put this question to me in these terms. Surely it is right that every generation should say, we want to make a better world. You couldn't deny that. You don't say, oh, we want to make a worse world. But perhaps, but when we use this term better, it is intrinsically comparative. It's like saying this is A is better than B. So perhaps the right way is to say, no, we want to make a good world. never mind that it's better or worse, but it's good, and that our emphasis should be on the common good rather on making casting an evaluation as to which is better than what. Allora, è una domanda importante, grazie, che mi tormenta tantissimo. In realtà non ho una risposta a questa domanda, cioè non do una risposta nel mio libro a questa domanda, perché comunque è una domanda difficile, nel senso che è difficile dire che non si ha, diciamo, il diritto a volere un mondo migliore. Però riflettiamo un attimo su cosa implica, diciamo, fare questa richiesta, no? Spesso richiesta, diciamo, avere questo obiettivo. C'è un giudizio morale di fondo che magari ci porta fuori traccia, nel senso che abbiamo questa idea di un progresso morale nel corso del tempo che probabilmente ci limita un pochino, nel senso che secondo me dobbiamo riuscire a evitare di porre un giudizio morale su ciò che hanno fatto i nostri antenati. Ad esempio, in tante parti del mondo, spesso e volentieri, più che un giudizio su ciò che è stato fatto da parte dei nostri loro antenati, c'è un semplice rispetto e una narrazione di quello che è stato il percorso di chi è venuto prima di noi, e già questo di per sé è un esercizio importante e rilevante per ricordarci appunto che stiamo, diciamo, c'è una continuità generazionale, noi siamo al mondo perché qualcuno ci ha generati. Ritornando alla questione delle generazioni che fanno delle richieste, no, sul proprio futuro, spesso pensiamo, diciamo, che vogliamo un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo, che ci troviamo nel nostro presente o che è stato nel passato. Ma forse una parziale risposta può essere: evitiamo di dire che vogliamo un mondo migliore e iniziamo a dire semplicemente, tra virgolette, semplicemente, perché non è semplice, che vogliamo un mondo buono, senza continuare a porre in negativo, diciamo, un passato o un futuro, ma semplicemente riuscendo a davvero lavorare con l'idea che un mondo buono si può produrre e costruire. Perché in questo modo magari invece di continuare a mettere sforzi su un giudizio valutativo, uno sforzo appunto che comunque è difficile anche nell'elaborazione di cosa è giusto e cosa è sbagliato, potremmo mettere anche molte energie nella costruzione di un bene comune e quindi dell'evoluzione di qualcosa di buono per la collettività costruito insieme. Questo è un po' fuori anche come domanda, però giustamente si critica molto la società occidentale. Oggi per esempio abbiamo parlato di progresso e volevo chiedere se secondo lui c'è qualcosa comunque che si può tenere della società occidentale come. So maybe this is too much of a big question, I don't know, but you know, we often criticize Western culture because and its idea of progress, but in a kind of way I'm asking you if there is something that you would save or keep from our society, the Western society. Maybe. I think we have to find an alternative to progress as an ideology. We could say that for the past 300 years, we've managed to convince ourselves that we can have both progress and sustainability. And that the Earth's reserves are inexhaustible. and we can keep on extracting what we need in order to develop in material wealth and so on. We've now reached a point where we realize that we can't have both. And if we're going to have a world for future generations, then we have to choose sustainability rather than progress. Okay. Okay. Allora, forse c'è qualcosa che salverei, però attenzione. Dobbiamo forse immaginare delle alternative all'idea di progresso come ideologia che nel corso degli ultimi 300 e rotti anni ci siamo, diciamo, convinti dell'idea che noi possiamo avere sia il progresso che la sostenibilità. E tra queste due, quindi possiamo avere sia l'estrazione dei beni, lo sfruttamento, eccetera, che una forma di sostenibilità sempre un po' vagamente, diciamo, definita o capita in realtà. Tra le due, diciamo, è sicuramente il più importante scegliere la sostenibilità e prendere coscienza del fatto che non possiamo avere entrambe progresso e sostenibilità. E c'è una seconda parte della risposta. However, I would not agree with those critics of humanism who argue that the days of humanism are over. I don't think we can say to people around the world who have not yet benefited from education, literacy, healthcare, education, we can't turn around to them and say, I'm sorry, humanism is over now. We're in a post-human world now. You've missed the bus. Però appunto, comunque questo vuol dire che... So there is this part of Western society which you would preserve, of course, yes, right? Yes. Beh, quindi in questo senso, attenzione, perché comunque ci sono aspetti della società occidentale che sicuramente... riflettono un umanesimo ancora presente, nel senso che io mi sentirei davvero in difficoltà e critico coloro che considerano fattibile l'ipotesi o la possibilità di voltarsi verso chi non ha tanti dei diritti di cui noi godiamo relativamente liberamente, come l'istruzione, la salute, eccetera, eccetera, e dire loro, per una presa di posizione appunto postumana, mi dispiace, ci dispiace, adesso tutto ciò che noi invece siamo riusciti in qualche modo ad acquisire come questi diritti, voi non dovete considerarli, non dovete, diciamo, immaginare di poterli, diciamo, raggiungere, perché adesso siamo in un'altra fase, diciamo, post-umana. Quindi appunto questi valori qui, cioè questi diritti che siamo riusciti ad avere sono sicuramente da preservare, da ricordarci che c'è poi tutta un'altra parte di mondo che ne ha bisogno, come ne abbiamo goduto noi. Therefore, rather than post-humanism, I think we should be trying to think about a different humanism, a humanism different from the one we've had for the last 300 years, which has been dominated by the Enlightenment idea of progress. So we shouldn't abandon humanism itself. Got it? Yeah, what did you say against posthumanism? You said something next to that word. I said. Okay. Comunque, in pratica, quindi il punto è che better humanism. Invece di un postumanesimo. We need another humanism rather than posthumanism, we need a different humanism. Ci serve un umanesimo diverso. Quindi ragionare non tanto su un superamento, diciamo, da zero dell'idea di umanesimo, ma di un umanesimo differente che possiamo riuscire a costruire e in questo modo abbandonare l'idea di un progresso inteso in termini appunto occidentali. Yeah. Very good question. A proposito di idee, Recentemente un teorico italiano abbastanza conosciuto che si chiama Franco Berardi, in arte Bifo, un grande esperto di comunicazione e un attivista politico, attraverso la sua ultima pubblicazione Pensare dopo Gaza, ha messo in evidenza come anche quello che diciamo le generazioni di attivisti e comunque di coloro che si sono posti diciamo all'estrema sinistra del pensiero, almeno qui in Italia, hanno considerato come il miglior pensiero prodotto in Europa, almeno quello più fervido, come questo all'interno di queste stesse ideologie, di queste stesse posizioni ideologiche. Ad esempio lui cita il pensiero dei filosofi Deleuze e Guattari con Mille piani, come il loro concetto di rizoma, che pure ha dato tantissimo, così ha evocato tantissime idee, tantissimi concetti in un pensiero diciamo di sinistra, come questo stesso pensiero sia stato utilizzato dall'altro lato da ad esempio nelle strategie militari di Israele contro Gaza, insomma, la Palestina. Non ho letto il libro, però mi sembra capire che questa idea di generazione, no? del pensare la generazione attuale sia un po' quindi non guardare a una stratificazione, ma come pensare a chi agisce nel presente, no? È un'idea di azione nel presente. In questa idea di azione nel presente ci sono tutti quelli che agiscono nel presente, quindi non un'idea in cui ci si succede e quindi quelli che arrivano adesso fanno meglio di quelli prima e fanno peggio di quelli dopo, ma tutti quanti quelli che sono presenti, agiscono nel presente, sono la generazione presente, almeno mi sembra di capire qualcosa del genere. E volevo capire quindi quest'idea di lasciare un attimo da parte una visione di pensiero che forse si può più facilmente più facilmente produrre delle contraddizioni ed essere utilizzato in modo diciamo strumentale. Da altre parti, quali possono essere invece delle pratiche intergenerazionali, cioè quindi delle pratiche che incrociano, se tu ne hai incontrate di interessanti, di riproducibili, e quali ti senti di dire che sono quelle percorribili e che possono mettere realmente insieme le generazioni in un'azione nel presente? Può ripetere il nome dell'attivista, che me lo sono persa? Bifo. Giusto. Ok. So there is this political activist who has written a book, Thinking After Gaza. His name is Bifo, Franco Berardi. And he talks also about, you know, different generations of activists and ideologies and the way that they have developed. In his work, he also cites, talks about Deleuze and Guattari, who talk about the rhizomatic society, and this conception was highly influential in the left wing and in the militant scene. But at the same time, it was also extremely potentially used by military forces for enacting strategies of violence. He claims that in Israel, the same conception of a rhizomatic, of the rhizome, I guess, has been used to perpetuate violence on the Palestinian people. Now, I have not read the book, and from what I've understood, your conception of generation now is about acting in the present, regardless of giving judgments on the better or worst generation. And my question is therefore around the practices that intergenerational practices that you think can be enacted. If you have come across any of such practices, which ones would you define as being the most reproducible, interesting, or able to unify generations? So which kind of such practices? would you like to talk about? Okay, thank you. There are two questions there. One is about the use of the rhizome by, say, the military, and the other one is about how we, what exemplars we can find of doing things differently. I read recently, actually in an editorial of the magazine Anthropology Today, because my mind is a spin, I can't remember the author, but he was actually, it was a he was talking about how the Israeli military is using artificial intelligence mm-hmm. to target places to bomb mm-hmm. in Gaza. They do this apparently by tracking mobile phone signals, identifying them with a certain individual, using artificial intelligence to work out how radical this individual is on some sort of scale, and then if they reckon that this person is above 7 out of 10 or something, they'll drop a bomb on that building. This is the way it's done. It's almost like playing a video game or something. The people are there pressing the buttons, doing the calculations, and the bombs fall. And it's absolutely terrifying if that becomes a model for armed conflict. It is already, and if that were to become the norm in the future, this would be terrifying. And there is a way of arguing that is a sort of rhizomatic warfare, but I think it's interpreting the rhizome in a very different sense from the sense in which certainly I would want to interpret it. Maybe I better stop there for a moment so that okay. you can do that bit. Mm. Allora, qua ci sono un po' due domande. Sul primo punto rispetto al concetto di rizoma e di società rizomatica anche di cui si parlava. Avevo letto un articolo pubblicato sulla rivista, se non ricordo male, Anthropology Today, che parlava appunto dell'utilizzo all'interno dell'assetto militare israeliano di intelligenza artificiale sia per tracciare individui che per identificare il livello di radicalizzazione di queste persone e poi colpire i target a seconda di una certa, dopo una certa soglia di livello di pericolo. E però tutto questo è davvero terrificante e spaventoso, perché soprattutto se dovesse diventare poi la norma in termini di modello di conflitto armato. E però secondo me ci sono anche delle differenze rispetto a quando parliamo di rizomi in termini deleuziani, ci sono un po' delle differenze rispetto a queste strategie di guerra e ciò che invece what Deleuze was talking about, ciò di cui parlava appunto Deleuze nella questione del rizoma. It's partly because of the ambiguity of the French word réseau, which for example can refer to a network of connections, rather like in a mobile phone network. Every phone is connected to every other, but each phone is like a node in this network. That's one meaning of réseau, but the other one is the meaning like in a fishing net or something like that, where there are a lot of strings that are tangled up together. But the lines are the strings themselves, they're not connections between points. Get it? Yeah. The lines are not connections between points, okay. Allora, però, e questo, cioè, problematizziamo un attimo questa concezione di rizoma. Allora, forse è dovuto anche, diciamo, questa difficoltà poi a mettere insieme questa similarità tra il rizoma e le strategie militari è anche dovuta all'ambiguità della parola rizoma in francese, perché da un lato può significare sia una rete che si costituisce attraverso diversi nodi, dove appunto l'esempio è tanti telefoni che sono connessi tra di loro in termini rizomatici, costruendo una rete. Però se poi invece pensiamo a una rete, tipo una rete da pesca, in questo caso vediamo che le linee, i percorsi di filo di queste linee non per forza... they don't create knots. They don't create with the fishing knot there, yes. I nodi di queste reti non per forza costituiscono poi delle reti, in questo senso diverso dalla rete di cui parlavamo prima. So I've used the word network for one and meshwork for the other to make that distinction, and I think that Deleuze and Guattari are really talking about the meshwork and not the network. But it has been read in both ways. Meshwork. Doesn't have any. E quindi io parlo della differenza tra rete, network, e meshwork, che sarebbe like a mesh, right? Yeah. Like yeah, a mashup. Like inventiamo parole nuove oggi in italiano. Like come un tessuto, un meshwork, perché mesh in inglese però può anche voler dire confusione, macello, e quindi è una rete che non è appunto per forza ben assettata e definita come l'altro tipo di rete. E secondo me appunto Deleuze e Guattari parlano della meshwork. Yeah. Io ho detto male di questo, non volevo sollevare una questione né sul rizoma né su. Cioè è stata un'affermazione di Cocciari, capo di Stato, capo di militare israeliano, che ha utilizzato il termine rizoma per dire che loro si ispiravano al rizoma per le strategie militari. Bifo ha preso in prestito questa cosa e ci ha scritto su, però non volevo, cioè so benissimo che c'è una differenza, ma volevo semplicemente dire che probabilmente il meglio del pensiero novecentesco e occidentale, quello che almeno noi riteniamo essere il meglio, produce e ha prodotto e continua a produrre delle ambiguità, mentre volevo centrare un attimo, proprio spostare invece sulle pratiche. Quindi se la generazione, cioè se questa visione non stratificata delle generazioni, ma contemporanea, no? Quindi la contemporaneità delle generazioni si dà nell'agire contemporaneamente, quali sono le pratiche? Quindi la mia domanda era più sulle pratiche che sul rizoma, perché... So I didn't really want to focus too much on the rhizome. I just wanted to accentuate that, you know, what is produced intellectually can also then be appropriated for other means, and that is an issue, and then which was picked up by the militants. But the focus of my question is around these practices and how these the question I was making before about the intergenerational practices can be brought back to the foreground. But absolutely, I mean, that if you operate with the logic of generational replacement with one generation, then your instruments of power, your technologies, will be ones. I used the example in the book of the bulldozer and the crane, that the bulldozer clears away the rubble. And the crane puts a new order on top. That's what Trump wants for Gaza. He said, happy, we've destroyed it all. Great. Clear it all away. Now I'll put my Mediterranean resort on top. So that's a replacement model, which is entirely compatible with that kind of stratification thinking. The people themselves, what matters is that life should carry on, that there be a possibility for children to follow in the paths of their parents. And that is what's being crushed underfoot by military force. So these distinctions, these questions of how we think about generations and their passage have absolutely direct material consequences in the application of violence and military force. Yeah, does that work? Yeah, do you have something more to say about the practices which you think could be useful? And then I will answer everything. The practices that might be useful, but the first thing might between be to stop. Generations. It might be good if they stop bombing one another, dropping bombs on people. That might be a good place to start. Allora, vediamo comunque messa in pratica, cioè vediamo che questo ragionamento di una stratificazione di generazione, una generazione che sostituisce l'altra, si sta avvenendo adesso, no? Con appunto questo piano di ricostruzione per Gaza che Trump ha in mente, che mina a eradicare totalmente la vita che esiste o esisteva in Palestina e a Gaza e sostituirla con altre forme di vita che sarà lui a decidere il suo tipo di visione del futuro a implementare. Quindi se mi chiedete anche rispetto alle pratiche, ecco, forse si potrebbe partire anche dalla la fine di questi bombardamenti. Quella di per sé sarebbe una pratica intergenerazionale. Would that be an intergenerational practice in your... In some ways, yes. Sarebbe anch'essa una pratica. And the bombs, the fact that the bombs are coming down from above onto the ground rather than growing, so that the intervention, when generations are stratified on top, then the interventions come from on top. They don't grow from the ground. Ok, e appunto le bombe vengono dall'alto e rovinano tutto invece di esserci una forza dal basso che possa costruire una nuova vita. Thank you so much.